ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Libero di essere me stesso, libero di camminare, andare in giro, puoi mostrare a tutti quanti la mia pancia. Non me l'aspettavo, non credevo di volerti così bene. Chi sarà la tua gemella in difesa pecorella? Che grazia che hai, ti amo, lo sai. Pancia, misurati la pancia, fammela vedere, scopriti la pancia. Sì, partiamo dalla pancia. Perché? Perché oggi, insieme al nostro esperto, già ve lo presento perché è in linea, il professor Bruno Giammusso. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Responsabile dell'unità operativa di andrologia del Policlinico Morgagni di Catania, e qua avete già un'indicazione, vogliamo parlare della relazione che esiste tra la circonferenza addominale, la misura della nostra pancia, e la salute della prostata. Professore, perché la dimensione della pancia ci dice qualcosa della salute della prostata e condiziona anche la salute di questa ghiandola? Certamente, anzitutto teniamo presente che quando parliamo di circonferenza addominale, quindi quella che possiamo facilmente misurare noi stessi con un metro, ci riferiamo all'obesità addominale, cioè questa circonferenza correla con l'accumulo di grasso all'interno dell'addome. Questo accumulo di grasso è di per sé un fattore di rischio molto ben conosciuto, di rischio cardiovascolare. Quindi è una condizione che aumenta il rischio di sviluppare patologie del cuore e dei vasi. Ma una serie di dati ha dimostrato che anche la prostata e le sue patologie possono correlare con il girovita. In particolare in due direzioni. Anzitutto l'ipertrofia prostatica benigna, che ricordiamo è quella condizione in cui la prostata aumenta di volume in una fascia di età generalmente dopo i 50 anni, provocando dei disturbi nello svuotamento della vescica. L'ipertrofia prostatica benigna può risentire negativamente dell'aumentata circonferenza addominale, quindi della obesità viscerale. Ma c'è anche un altro meccanismo. L'obesità viscerale è in grado anche di alterare direttamente il meccanismo di svuotamento, quindi alterare quel meccanismo per il quale uno sfintere, che è il collo della vescica, si deve aprire al momento della minzione e la vescica si deve contrarre. Questo meccanismo, questa dinamica può alterarsi nel soggetto obeso, in particolare nel soggetto con obesità viscerale. Queste sono le due principali correlazioni tra funzione prostatica e obesità. Quindi non conta tanto e solo il valore indicato dalla bilancia, il peso, ma la misura della circonferenza, perché ci sono anche uomini magri che hanno la pancia. Pesano proprio poco, così. Ma la pancia c'è. Utilizziamo il metro per misurare la pancia, sì, come strumento di diagnosi nei nostri ambulatori, sia nell'ambulatorio urologico che nell'ambulatorio andrologico, perché esiste una correlazione diretta, come abbiamo detto, con parametri di funzionalità urinaria, ma anche con parametri di funzione sessuale. Quindi il metro è uno strumento di diagnosi nelle mani dell'urologo e dell'andrologo. Quindi possiamo dire, professore, che la salute maschile viene in qualche modo protetta da uno stile di vita sano, perché per non accumulare grasso intorno alla pancia dobbiamo mangiare bene, muoverci, e quindi ritorniamo nelle indicazioni che ogni giorno i medici che passano da Obiettivo Salute ricordano. Professore, perché è importante e quali sono soprattutto ancora i luoghi comuni che in qualche modo possono creare confusione e allontanare da quella che è una sana prevenzione? Tra l'altro è molto semplice. Assolutamente semplice. Correzione degli stili di vita è il primo passo in assoluto per la salute della prostata, sia in termini di alimentazione, e lei giustamente faceva cenno a un'alimentazione che non sia ipercalorica, che quindi possa esporre all'obesità viscerale, ma anche evitare quegli alimenti che possono avere un effetto irritativo diretto sulla ghiandola, come per esempio i cibi particolarmente piccanti, che sono, e qui scatta il luogo comune dell'afrodisiaco, ma in realtà i cibi molto piccanti hanno un effetto irritante che per chi ha disturbi urinari non è assolutamente un toccasano. E poi l'attività fisica regolare, ci sono tantissimi studi che dimostrano come chi fa attività fisica regolare vede migliorare in maniera evidente il proprio punteggio di sintomi urinari, cioè urina meglio. Quindi la funzione urinaria ne riceve un beneficio dimostrato e misurato. Passeggiando in bicicletta accanto a te, pedalare senza fretta la domenica mattina. Ma professore, lei sa che quando si parla di prostata e attività sportiva si torna sempre a parlare di bicicletta. Allora, questa famosa bicicletta, questo sellino, fa male alla prostata? Basta avere delle attenzioni particolari, o chi non ha disturbi può insomma praticare lo sport che più preferisce? Eh sì, probabilmente il sellino è stato ingiustamente ed eccessivamente colpevolizzato. Il sellino della bicicletta, quindi lo sport del ciclismo, non è in grado di provocare patologie della prostata. Eccolo. È semplicemente in grado di accentuare i disturbi in un soggetto che ne soffra. Quindi un paziente che ha una sintomatologia irritativa in fase acuta dovrebbe evitare di andare in bicicletta, o quantomeno di starci troppe ore. Ma possiamo rassicurare chi pratica il ciclismo che questo sport non provoca danni alla ghiandola. Professore, fumo, alcol? Che dire, bacco, tabacco, medici, e venere. Noi medici diciamo sempre le stesse cose, ma purtroppo il cerchio si chiude sempre lì. Il fumo è un importante fattore di rischio cardiovascolare, e i suoi danni, e li risentiamo anche a livello dell'apparato urinario, perché peggiora il flusso sanguigno, peggiora l'irrorazione ematica, e quindi la funzionalità del basso tratto urinario ne risente negativamente. Ricordiamo poi che il fumo è un importante fattore di rischio per i tumori della vescica, e quindi anche questo va segnalato. Sull'alcol, l'abuso alcolico è anche questo un fattore di rischio cardiovascolare, e quindi come tale bere moderatamente ha addirittura degli effetti positivi, ma andare oltre le 2 unità alcoliche al giorno, dove per unità alcolica si intende per esempio un bicchiere di vino, andare oltre quello può esporre a degli effetti anche sull'apparato urinario. Per bacco e tabacco abbiamo il messaggio è chiaro, e per venere? Per venere non ci sono limitazioni particolari, anzi dobbiamo ricordare che è importante che gli uomini abbiano delle eiaculazioni regolari, cioè evitare i periodi di astinenza troppo prolungata, perché questo può provocare un ingorgo delle vescicole seminali e della prostata, e quindi può anche avere degli effetti negativi sulla ghiandola. Ciò che bisogna evitare è ad esempio sottoporsi a delle stimolazioni che poi non si concludano con l'eiaculazione, oppure delle stimolazioni molto protratte senza eiaculazione, perché questo invece provoca proprio quell'ingorgo di cui dicevamo prima e che può avere effetti negativi. Una regolare attività sessuale è senz'altro favorevole anche ai fini della funzione urinaria. Professor Giammusso, ma parliamo anche di prevenzione, insomma non bisogna aspettare che la prostata inizi a dare problemi, si può giocare in anticipo? Sì, è proprio così, ci sono delle patologie tipicamente giovanili come le prostatiti e sono delle patologie che possono riservare problemi perché possono tendere alla cronicizzazione, perché possono interferire con la fertilità. Quindi assolutamente d'accordo, il messaggio è prevenzione anche in età giovanile. I disturbi irritativi, quali la minzione troppo frequente o il bruciore urinario, possono essere segnali di infiammazione prostatica. In questi casi certamente consultare il medico. Professor Giammusso, PSA, quando, come, perché? Il PSA è un utilissimo mezzo di screening, però è stato il centro di tante controversie. Sì, perché un po' il PSA della discordia, ecco. È della discordia, sì, perché esistono correnti di pensiero che ne sconsigliano l'utilizzo rutinario di screening perché dicono che questo può portare a una diagnosi, un over-diagnosi, cioè diagnosticare anche delle forme che probabilmente non andrebbero mai trattate, quindi portare troppi pazienti a trattamento laddove non è necessario. Direi che la verità sta in mezzo, non possiamo assolutamente negare l'importanza del PSA come metodica di diagnosi precoce, quindi personalmente mi sento di consigliare lo screening del PSA a partire da 45 anni, ciò che è importante è che venga interpretato correttamente dallo specialista. La differenza la fa lo specialista, non il PSA. Quindi il PSA nelle mani di chi sa utilizzarlo e sa coglierne i segnali è certamente un modo importante per prevenire, per diagnosticare precocemente patologie neoplastiche della prostata. Grazie professor Giammusso per essere stato con noi, io le auguro una buonissima giornata. Grazie a voi. Io vi ringrazio come sempre dell'ascolto, vi ricordo che dopo il GR delle 12 noi ci sentiamo per gli appuntamenti che arrivano dal mondo della ricerca e come ogni giorno sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute trovate le nostre video interviste. Allora ci vediamo e ci sentiamo presto, buona giornata! Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.